questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Permette, posso darvi delle simpatiche canaglie? Siete veramente fantastici. Ragazzi, che triste il lunedì senza la moviola. Peggio del tempo che c'è là fuori, non è ancora uscita la luce. 800240024 per partecipare a tutti i convocati anche oggi, per essere qui con noi. Franco Piantanelli, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. C'è Pierluigi Pardo, naturalmente. Come va? Come va? Come vuoi che vada, Pier? Niente partite, niente moviola, niente di niente. Come vuoi che va? Sono arrabbiato come una bestia. Ma guarda, non sei il solo. Fra l'altro, tanti dicono: ah, il calcio, la gente si disabora, no? Ci sono tutte queste teorie. Ma non è vero niente. Poi quando appena arrivi su questi weekend senza calcio, vedi gente disperata che squilla il suo dolore. Sto in rota, come dicono a Roma. Ecco, a Roma, stavo tutti quanti a Roma, senza campionato, un fatto gravissimo. Chi se ne frega della nazionale e delle sue amichevoli. Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport, in direzione Viareggio, dove ritirerà il premio Viareggio Sport, beato lui. Alla carriera. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Alla carriera. Sì, no, è ancora presto per la carriera. Sono in zona di gallerie, quindi una domanda imbarazzante sarà per me. Facilissimo fingere che la linea sia caduta e salutarvi. Sarà facilissimo. Ciao Carlo, ciao Pier. Ciao Paolo. Uomo fortunato, perché pure durante le pause del campionato riesce a fare viaggi strepitosi. Lisboa. Ma non, perché non va, vedi la grandezza di Condò. No, Pier, però me lo devi passare come ponte radio, perché non lo sento assolutamente. Senti Paolo, in questo lunedì di somma tristezza, col coito interrotto, è una nazionale di cui a me non importa niente, non so a te, mi viene voglia di fare il gioco delle coppie. Penso un po', voi oggi sulla Gazzetta fate top e flop, un grande classico. Il gioco delle coppie è un altro grande classico, ispirato a Balotelli Rossi, immagino. No, la prima coppia di cui ti chiedo ragione è questa: io e Pardo. Direi puoi parlare malissimo. Non ci potrebbe essere una cosa superiore: la competenza e la verve unite è veramente una cosa strepitosa. Se vi serve un terzo, sapete dove ovviamente dove la mia competenza e la tua verve, ovviamente, no? È un classico, è giusto dividersi le parti. No, senti, è chiaro anche in questo gioco delle coppie, vabbè, giocano stasera Rossi Balotelli, tutti dicono questa sarà la coppia mondiale, o no Paolo? Beh, io sono un tradizionalista in questo senso, mi piacciono le coppie di attaccante dove c'è il manzo e lo spadaccino, e quindi in questo senso sono abbastanza fiducioso. Poi bisogna fare tutti i soliti, così, se la testa, tutto, però per un giorno li vorrei lasciare da parte, parliamo soltanto dell'aspetto tecnico. Il manzo e lo spadaccino sono genericamente la mia coppia d'attacco favorita ovunque. Il triangolo no, invece Osvaldo dove lo mettiamo, Pier? Ma Osvaldo mi sembra una subordinata in questo momento, insomma. Io credo che la coppia sia, a parte che poi sai, il triangolo, giocare con tre punte, un conto se giochi contro le Faroer o contro le squadre durante le qualificazioni, poi il mondiale non si scherza, ogni errore lo paghi e l'equilibrio diventa fondamentale. Osvaldo mi sembra una subordinata, mi sembra che sia dietro, insomma. Io voto per questa coppia, perché in questo momento mi sembra insomma che sia la nostra. Noi dobbiamo sperare che questa sia la coppia, perché vorrebbe dire che Pepito tiene dal punto di vista fisico, tecnicamente è un fenomeno, non si discute, e che Balotelli tiene dal punto di vista mentale, o meglio recupera della positività dal punto di vista mentale. Poi a me piacerebbe che ci fosse una sorpresa, una per amicizia ti direi Cassano, ovviamente, ma so che è molto difficile, o anche Totti, o comunque insomma o anche di Natale di un certo livello, insomma. Cioè la coppia più la chioccia, mettiamola la così. Coppia più, sì, più l'uomo che ti fa spridiare, no? Ah, come nello scopone scientifico, lo va bene, va bene. La giriamo ai nostri ascoltatori 800 24 00 24. Adesso traffico, montagne, gallerie permettendo. Paolo Condò resta con noi, Pierluigi Pardo non dovrebbe essere in montagna, dunque resta con noi sicuro. Strade. Mario fa un brutto fallo, deve essere punito Mario. Ma un altro fa un brutto fallo su di Mario, deve essere punito quello che ha fatto il fallo su di Mario. Tutti convocati. Naturalmente vale tutto, compresa la coppia più gnocca che è Wanda Icardi, sarebbe con possibilità di triangolo Maxi Lopez. Vabbè, su questo tralascerei. Invece una coppia che si gioca al mondiale, chi ci va? Ronaldo o Ibrahimovic? Pardo. Per me c'è Ronaldo, 1-0. Portogallo ha una grandissima capacità nel complicarsi la vita, nel rovinarsela spesso, però... poi insomma, Paolo era lì, quindi voglio capire che pensa lui. Io credo che l'1-0 in casa sia un buon risultato e che il Portogallo sia più forte, per cui io alla fine con tutto, cioè, piange il cuore a pensare che uno dei due non lo vedremo al mondiale, sì. Però insomma io spero e penso che sarà il Portogallo. Forse è riduttivo, il Portogallo è più forte della Svezia secondo me, Paolo. Ecco, quando... Paolo, ci sei? Si è perso. È in galleria. Paolo, in galleria, ma adesso per quanto riguarda il Portogallo, è più forte della Svezia, Pier, ma lo sì. Dicono anche le ultime competizioni internazionali, insomma. Diciamo che il gioco del calcio per i portoghesi è drammaticamente complicato dalla presenza delle porte. Esatto. Che rendono, diciamo, campioni del mondo senza porte. Esatto, necessario segnare dei gol. Anche se Cristiano Ronaldo da questo punto di vista è una magnifica eccezione, anche se comunque non è anche lui l'attaccante classico, la tradizionale. Pensate che il bomber della storia del Portogallo è stato per lungo tempo Pauleta, cioè giocatori o lo stesso Nuno Gomez, no? che è un attaccante discreto che ha scalato tutte le classifiche dei gol nella storia della nazionale portoghese, e stiamo parlando di un giocatore abbastanza normale. Quindi invece dal punto di vista dei trequartisti è una generazione ed è una scuola fantastica, anche negli ultimi anni, Rui Costa, Figo, sono giocatori favolosi, i due esempi sicuramente più importanti, però insomma io credo che ce la faranno. Tornato con Doh? No, è sempre in galleria. Abbiamo creato un discreto casino in Spagna, eccolo qui Paolo Condò. Paolo, abbiamo creato un discreto casino in Spagna, io e Pardo, venerdì è stato nostro ospite Ancelotti, che stasera sarà a Tiki Taka, lo dico già io, lo ricordo già io. Anche tu, Dovevo andarci anch'io se non fossi stato preso. A te ti premiano, sei importante, sei raggiungibile. Ma esistono premi che valgono di più di una partecipazione a Tiki Taka, fatemi capire. Forse il pallone d'oro, così per il pallone d'oro, galleria. Ho detto, abbiamo creato un discreto casino in Spagna, perché io ho detto, se Cristiano Ronaldo non vince il pallone d'oro, lo vince Messi, io e Pardo andiamo a fare un sit-in in piazza a Reggiolo, e Ancelotti ha detto vengo anch'io. Hai visto AS, Marca, Il Mondo Deportivo, eccetera, un casino infernale. Beh, ovviamente è un tema molto sentito, visto che sono le due squadre, le massime rivali del calcio spagnolo. Sono assolutamente d'accordo con voi per quanto riguarda quest'anno il confronto Ronaldo Messi. In assoluto ci sono anche altri giocatori, però, nel senso che se lo Messi per la quinta volta alla fine del premio, quest'anno non ha giocato Messi. Si è fatto male la prima volta in marzo a Parigi, nel quarto di finale contro il Paris Saint-Germain, e da lì poi è stata una continua sequenza di ricadute per le quali, insomma, quest'anno secondo me dovrebbe essere assolutamente fuori concorso. Tu a chi lo daresti? A Ribéry o a Cristiano Ronaldo? Io non ti posso dire a chi lo darei, perché l'ho dato. Perché, voti, perché hai votato, senso che non puoi dirlo. Che ho fatto e c'è l'obbligo del segreto. Però certo. Insomma, ci sono secondo me 4-5 giocatori. Ne devi mettere due del Bayern sicuramente, devi mettere Ronaldo, devi mettere Ibrahimovic, devi mettere Lewandowski, che secondo me ha fatto una stagione eccezionale. Insomma, ci sono 5-6 giocatori che lo possono meritare. purtroppo non si vota, troppo è già chiuso il voto, perché secondo me se tu avessi potuto votare dopo lo svolgimento dei playoff mondiali, alcune idee sarebbero state più chiare. Sì, perché, sì, certo. Per esempio domani sera Ibrahimovic è alla chiamata finale della sua carriera con la nazionale, perché o fa il miracolo domani sera o a 32 anni ha chiuso con i campionati del mondo. Sì, cioè a dire quindi... che è supportato Paolo da, da una Svezia che non vale onestamente il Portogallo, perché è semplicistico ed è anche ovvio ridurre questo duello al faccia a faccia tra Ronaldo e Ibrahimovic, ma il Portogallo è più forte della, della Svezia. Questo, questo indubbiamente, però comunque tu ti giochi a casa tua partendo da 0-1, che è un risultato buono per il Portogallo, ma non disastroso per la Svezia. E quindi, ripeto, è la chiamata finale. Domani se hai 100 devi mettere 120, sì, dentro, dentro quella partita. Insomma, Zlatan, diciamo che è, per carità, è uno che ha fallito tante grandi partite, Zlatan. Certo. Però comunque, comunque è uno che insomma, qualcosa da dire ce l'avrà domani. Vedendo la partita l'altra sera tra Portogallo e Svezia, riflettevo ancora una volta su quanto poi il calcio si mescoli alla vita, no? E alla la razza è una parola bruttissima, insomma, però le etnie, le provenienze, quanto siano importanti, perché in realtà il calcio svedese, che è un calcio organizzato, era 4-4-2, classico, storico, anche, anche discreto, no? Dignitoso, eccetera, eccetera, poi alla fine si esalta soltanto nel trovare una figura che chiaramente ha un'origine slava, che chiaramente ha una personalità diversa, un background diverso, che è la, la, la clamorosa positiva differenza della Svezia di questi anni, no? Quindi sappiamo che Zlatan... No, ma poi il paradosso di queste qualificazioni è Zlatan, per questioni di madre e di padre, avrebbe potuto scegliere la Bosnia e sarebbe già al mondiale, avrebbe potuto scegliere la Croazia e sarebbe favorito nel suo playoff mondiale, ha scelto all'epoca, ormai molti anni fa, la Svezia, e per carità ha già giocato, anche se scendendo poco in campo, i suoi due campionati del mondo. E adesso immaginate una coppia bosniaca, Dzeko Ibrahimovic con Pjanic alle spalle, è una squadra che va anche oltre il primo turno del mondiale, questo. Sì, mentre c'è grande attesa ovviamente per il Belgio, che mi sembra la, la cosa più interessante e importante di questo round. Però al di là di questo, ragazzi, io prima di salutarvi voglio proporvi altre due coppie. Una che sta scoppiando, anzi è già scoppiata da tempo: Allegri, Barbara Berlusconi. Pier. La situazione di Allegri mi sembra, sinceramente in questo momento nel Milan mi sembra un po' una subordinata, nel senso che mi sembra che il suo destino, per quanto riguarda la prossima stagione, si sia già compiuto. E nel senso che io ecco, forse se vince la Champions Allegri può pensare, no, se vince la Champions sicuramente, ma quante possibilità ci sono che il Milan vinca la Champions? Onestamente abbastanza poche, cioè ci vorrebbe qualcosa di clamoroso, di prodigioso, al momento di impronosticabile per una sua conferma, che significherebbe ovviamente estensione di contratto. Quindi mi sembra che lì la partita sia una partita più tecnica, nella quale sappiamo bene insomma che ci sono state diverse scuole di pensiero, c'è stata una frattura anche molto profonda, che al di là di tutto a me sembra una frattura sulle cose. Cioè io capisco che poi chiaramente la querela tra Galliani e Barbara Berlusconi è anche una storia che in qualche modo si presta a suggestioni giornalistiche, perché è la giovane, bella, risoluta rappresentante della famiglia contro lo storico manager che ha accompagnato Berlusconi in tutti questi anni. Ma in realtà io poi penso che sia semplicemente una discussione aperta su cosa fare del Milan. Cioè voglio pensare, perché insomma, li stimo, quindi voglio pensare che sia di fatto semplicemente una discussione, sì, costruttiva su che idea di Milan c'è in testa. Allegri in tutta questa situazione mi sembra onestamente l'anello debole, mi sembra che chiaramente sia legato poi alla variabilità dei risultati, per cui è ovvio che se perde a Glasgow e sì, se perde altre due o tre partite poi salta, ma salta per una sorta di legge fisica naturale, sì. Non mi sembra che ci sia in questo momento un movimento così ostile nei suoi confronti, e la battuta dell'altro giorno, che dopo Chievo-Milan 0-0, alla fine chi viene mandato via l'allenatore del Chievo, insomma fa abbastanza riflettere. Sì, anche se prima del costruttivo bisogna passare attraverso la fase del distruttivo, che mi sembra quella attuale. A Paolo Condò regala un'ultima coppia prima di salutarlo, non so se è immerso in galleria, ma Mazzarri-Toir, come la vedi questa coppia? È una coppia che, oddio, di Toir sappiamo ancora pochissimo. e quindi sarebbe molto presuntuoso dirti ha questo carattere e quindi funzionerà o non funzionerà. Con Mazzarri è simpatico, direi che mi sembra Moratti il suo primo non in senso morattiano, è un divertente, è un sorridente, sono sempre stato abbastanza bene. Discutiamo le camicie, ma va bene. Discutiamo, certo. Noi stasera Paolo e Carlo proviamo a fare un salto avanti, perché ho visto le interviste e devo dire che mi sono anche piaciute, nel senso che poi chiaramente mi pare che queste prime interviste, conferenze stampa e pezzi siano serviti a cercare di capire che personaggio è, perché è venuto in Italia, e ovviamente le curiosità sono tante. Noi stasera proveremo magari andare un pochino più nel concreto, nei limiti del possibile, non penso che ci dirà quali sono i nomi della campagna acquisti, però insomma, certo. Capire che idea di Inter può avere in testa in questo momento. Anche se la domanda è quanto tempo ci impiegherà a pentirsi di essere venuto in Italia. Se lui ha detto che l'obiettivo dell'Inter è la finale di Champions del 2016. Sì. E il 2016 è oggi. Appunto, cioè, non è lontanissima. Non è lontanissima, e quindi è evidente, non è che tu adesso... Se vuoi far andare in Champions 2016, non puoi comprare 17enni di talento. Certo. Devi comprare dei campioni veri e sicuri. Certo. Devi mettere il brillocco all'anello dell'Inter. Era una battuta come quella su Messi. Cioè, anche quella su Messi è una battuta. Io sostengo da tempo che Messi, mentre una volta ero sicuro che avrebbe concluso la sua carriera a Barcellona, ora non lo penso più. Ora credo che l'acquisto di Neymar sia stata la prova che qualcosa potrebbe cambiare, ma magari non la prossima estate, magari tra due estati. E certamente per una nuova figura ricchissima che entra nel mondo del calcio, qual è la maniera per saltare in un colpo solo sceicchi, oligarchi Poi sappiamo che il mondiale è uno spartiacque anche per situazioni di questo tipo. Signori, io vi ringrazio, vado avanti da solo con i miei ascoltatori. Vabbè. Il triangolo scoppia. Piero Gipardo, Tiki Taka, Paolo Condono, lasciamo andare a ritirare il premio Viareggio Sport. Grazie. Ciao Carlo, ciao Pier. Grazie. Ciao. Abbiamo la borsa e poi voi 800 24 00 24, numero verde. Poi continuiamo con le coppie, anche al di fuori del calcio. Messi, oh. Let's discuss with the management. Tutti convocati. 800 24 00 24. Leggo che Prandelli ha paragoni illustri per Giuseppe Rossi, che questa sera giocherà contro la Nigeria in coppia con il numero 45. Non so se abbia il 45 anche in nazionale, sinceramente. Comunque dice Rossi un po' Zola, un po' Baggio. Secondo me non assomiglia né all'uno né all'altro. Se devo proprio trovare una somiglianza, cosa abbastanza difficile, oltre che inutile, oltre che abbastanza antipatica, magari con l'altro Rossi, quello che attualmente fa il commentatore per Sky, cioè Pablito. Mi sembra un astutissimo uomo gol. 800 24 00 24 è il vostro numero verde e io vivo solo per parlare con voi, come con Enzo dalla provincia di Varese. Buongiorno. Buongiorno a lei. Di che cosa parliamo? Parliamo della partita di ieri. Quello che vuole, sia chiaro, Crotone. Quello che vuole. No, Varese Crotone. Allora, io non sono un tifoso sfegatato, sono un po' simpatizzante del calcio. Sì. Ma quello che ho visto ieri fare all'arbitro è qualcosa di disumano. Non so se lei ha visto la partita o... No, imbattuto su questa gara, mi spiace. Non l'ho vista, ma non ho bisogno di altre prove per capire che fare l'arbitro è un mestiere estremamente difficile. Anche perché sappiamo bene quale sia l'intensità del gioco, sappiamo bene quale sia la velocità del gioco, dunque io non farei l'arbitro nemmeno dietro l'autostipendio, cosa che gli arbitri prendono, ma io eviterei volentieri, nonostante la crisi. Dica. Ma quando le cose sono palesi, come ieri, è impossibile non vedere tre rigori, un gol regolarissimo annullato, dato un rigore contro al Crotone che è assolutamente inesistente. E quindi cosa ne deduciamo? Che il Crotone, non è nelle grazie di qualcuno? Le squadre sono nelle grazie di tutti, di tutti. Però dico, un po' di un metro ci andrebbe su tutte le squadre. Dico, almeno uno su quattro glielo vuoi riconoscere? Sì, a parte il fatto che non ho visto la partita, quindi parlo su nulla. Poi, ripeto, fare l'arbitro è un mestiere estremamente difficile. Per me la moviola in campo non ha diritto di cittadinanza, a me non piace, è un'idea che a me non piace. Anche perché staremo qui di nuovo a discutere per giorni e giorni su quell'episodio di Juventus-Napoli, non abbiamo ancora praticamente finito di farlo ad una settimana di distanza, dunque intaschiamo errori arbitrali e valutiamoli ed etichettiamoli come meglio ci pare, cioè come con l'etichetta del dolo, della colpa, del disegno oscuro, di come vogliamo. Per me sono semplicemente errori di gioco, esattamente come quelli dei giocatori, poi io li valuto così. Altro non so dire, Enzo, dato che quella partita non l'ho vista, episodi compresi, quindi mi posso soltanto affidare alla sua parola, come a quella di Daniele da Fermo, che non so se vuol parlare di un altro episodio di Serie B o dintorni. Pronto? Pronto. Io voglio parlare di una cosa che mi sento dentro. Allora, prego. Lei mi è antipatico. Fantastico. Non so perché, ma lei mi è antipatico. Oh. Sia lei che sì. Pardo. Guarda, non ce la faccio, io non riesco, mi sento, però non ce la faccio molte volte. Ce la fa, oltre. A sopportarvi. Non lo so, che è una cosa, io Garanzini mica perché era un po' vecchiotto, sì, però... Voi proprio siete antipatici, sarete bravi a parlare di sport, cercate sempre le polemiche anche quando non ci sono, però siete antipatici. No, a me lei è simpatico. A me lei è simpatico, non c'è contendere, no, ma è giusto così, non si può mica star simpatici a tutti, Daniele. A me lei è simpatico, almeno per come l'ho sentito, e poi per le cose che ha detto mi è simpatico, quindi epidermicamente simpatico, ma non so, cioè non... noi proviamo a parlare di sport, parliamo di sport in questa maniera, non so, ci divertiamo così, può essere che anche molti si divertano così, oppure no, oppure si arrabbiano, oppure gli stiamo antipatici, ma va bene, l'importante è non essere indifferenti, come diceva Maradona. Torna a trovarci però, nonostante l'antipatia, con affetto. Fabio Brindisi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ciao. Un'osservazione più che una domanda: non avete l'impressione che il basket in Italia sia, diciamo, totalmente ignorato dalla stampa e dalla TV locale? Lo dico dopo una domenica che non c'è stato il campionato di calcio. Aspetta Fabio, tracciamo una linea di confine, locale o nazionale? No, nazionale, assolutamente nazionale. Perché lo dico perché dopo una domenica in cui non c'è stato il campionato di calcio e dopo una domenica in cui invece c'è stato un campionato di basket con delle, diciamo, partite clamorose tipo Brindisi che sbanca Varese o Bologna che va a vincere a Roma, prendo la Gazzetta dello Sport e non si trova nulla, e addirittura in prima pagina c'è il rugby. Beh, nulla. Ho sempre questa impressione, quindi non lo so, volevo sentire non la si volta, trova, ma non si trova nulla, non mi sembra. Mi sembra che no, due pagine a pagina 30. Sì, un paio di pagine di basket ci siano. Se parliamo di prima pagina, raramente la pallacanestro italiana ha fatto la sua comparsa sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Gli ultimi esempi li abbiamo avuti meravigliosamente dagli europei. Però non mi sembra che una giornata di inizio stagione sia tale da giustificare grande clamore. Detto questo, noi di basket oggi parliamo, quindi lei stia con noi, perché dopo il GR delle 15 abbiamo un appuntamento importante con uno degli allenatori primi della classe e per parlare di questo turno di pallacanestro. 800 24 00 24, numero verde, cos'è sta musica? Immagino vorrete parlare di Toira e di questa indimenticabile amichevole con il Chiasso, alla quale il neo presidente dell'Inter ha assistito. Sentiamo. That's good. So I'm going to see a friendly match. Yes. Did you sleep well tonight? Still jet lag. So the first day I wake up 4:00 in the morning. Now wake up 5:30 in the morning. You told yesterday that it's a dream that came true. How is your feeling today? And what are you thinking about the future of Inter? Look at the sun. Look at the sun. Dice, look at the future of the Inter. Look at the sun. Okay. Il sole. nelle idee dei tifosi dell'Inter potrebbe essere, ma secondo me è giusto un gioco, è questo. Lionel Messi secondo me non verrà mai all'Inter, Tohir non lo porterà all'Inter, secondo me Messi ancora per un po' resterà a Barcellona, anche se Paolo Condò dice i tempi con l'arrivo di Neymar potrebbero essere maturi per una emigrazione, una nuova incarnazione di Lionel Messi. È chiaro che a Tohir ciò è stato chiesto. How was your first friendly match? Well, it's a beautiful day. I mean, the weather is so nice, and I have a chance to meet Ivan Cordoba. So I think he's just coming to friendly games to say hi also. I think it's good. I enjoyed the game. And the feeling with the fans? Excellent. Unbelievable. To buy Messi. Messi? Oh. Let's discuss with the management. And what do you think about the Inter player? If is there someone that impressed you? At this game? Well, Juan Jesus is always reliable. Okay. Cambiaso, you know? Okay, thank you. Thank you. C'è Andrea che scrive... Carlo, ma il Moto Mondiale passa su Skype l'anno prossimo, su Skype l'anno prossimo, no, non su Skype, su Sky e basta, senza il PE. Leo Turrini, simpatica la risata di Tohir, so che stai ascoltando con attenzione il tuo presidente. Ma ce l'avete lì in studio, no? No, era ieri a Chiasso, figurati. Ah, no, perché siccome io quando Tohir stava per diventare presidente... ho letto quella famosa frase che il suo giocatore preferito era Ventola. Ventola. No? Allora ma per via di Kartika, moglie indonesiana di Ventola, beato però lui. Io spero, siccome ho letto che stasera Tohir ormai è dappertutto, in televisione, sui giornali, la radio, si dice, va dal nostro amico Pardo a Tiki-Taka, no? Ah, sì. Che gli chiede se si ricorda anche Zé Elias. Perché la cosa devo dire sconcertante non è tanto che il nuovo presidente dell'Inter venga da molto lontano, questo sì. Può anche essere un segno dei tempi, ma che insomma faccia riferimento dei giocatori che forse pochissimi tifosi nerazzurri, e uso un eufemismo, inserirebbero nel pantheon della memoria. Sì, sì, sì. Dunque, confido poi... un Pardo a Tiki-Taka che glielo chieda, ecco. Va bene, poi quello cattivo sono io, Tutti convocati. Quasi riduttivo definire Leo Turrini inviato di QS, perché Leo Turrini è molto di più, come voi sapete. E allora, oggi abbiamo fatto il gioco delle coppie, perché non c'è la moviola, non ci sono gli arbitri, non c'è nulla su cui litigare. Leo, c'è qualcosa su cui litigare? Secondo te? No, dici a livello calcistico non lo so, posso solamente esprimere con soddisfazione da ferrarista il fatto che domenica finisce il campionato del mondo e quindi Vettel non potrà eguagliare il record della Roma di Rudy Garcia delle vittorie consecutive, perché si dovrà fermare a 9. Sì. Però potrebbe polverizzare il record di Ascari, potrebbe battere il record di Ascari, e io faccio ovviamente un tifo contro, che tu non ne puoi avere un'idea. Allora guarda, io credo una cosa, che viviamo nei tempi che ci sono dati in sorte dal destino, indubbiamente Vettel, questo è fuori discussione, credo che sia la sua giovane età, ha i numeri che parlano per lui, ha fatto anche la 44esima pole in Texas, quindi 44 poli in fila per Senna col resto di Schumi, tu capisci che chiaramente insomma, siamo di fronte a un fenomeno. Rimane sempre quella vaga perplessità, come direbbe Tohir, no? Che non l'abbiamo mai visto guidare una macchina che non sia la magica lattina di Adrian Newey, la Red Bull. Questo non è colpa di Vettel, ma è un dato, voglio dire, storico, cronistico. Lo stesso Schumi, al quale viene sempre più spesso accostato, ha vinto nella fase giovanile della sua carriera con la Benetton e poi ha fatto quello che ha fatto con la Ferrari. Quindi insomma bisognerà forse lasciare un po' di tempo al tempo, fermo restando che Zé Elias era, come direbbero gli indonesiani, molto molto più forte di Lothar Matthäus, e forse anche di Peppino Meazza. Ma certo, c'è addirittura un Marco che scrive, deve essere un tuo parente, che sentire la tua saggia voce è un elisir di lunga vita, vedi tu. Io qualche scongiuro o faccio, no, poi vedi no, tu. Io non so chi sia questo Marco, lo ringrazio, tu prima mi hai presentato con varie etichette, dovevi dire no, la cosa della quale Leo Turini va più fiero è di essere uno, diciamo così, degli ospiti di tutti i convocati. Che è qualche cosa che sta, diciamo così, alla radiofonia italiana come 8 e mezzo di Fellini al cinema, dato che Vettel ha fatto la vittoria, possiamo già dire Vettel 8 e mezzo, perché per me gli possiamo assegnare già la metà del successo in Brasile fra 6 giorni. Non vedo come possa perdere. Io avrei degli altri film a cui accostarci, ma lasciamo stare che siamo in fascia protetta. No, però senti, io ho dedicato questa puntata Orfana della Moviola alle coppie che scoppiano. E allora è esplosa fragorosamente la coppia della Lotus. Grosjean andrà via, invece di far correre bravissimo Valsecchi, chi ti fanno correre? Kovalainen. Dunque, allora, come sai, Grosjean è rimasto perché è arrivato secondo, tu hai un lapsus, e Kimi che ha scelto di anticipare un intervento chirurgico perché la Lotus non lo pagava e quindi ha chiuso in anticipo la sua stagione tenendole forte per il Zilla Team 2014 che era Ferrari, perché Raikkonen era mal di schiena, Alonso ha preso il colpo di frusta con un collare, quindi io direi un altro titolo che si può fare: non sparate sulla, aperta parentesi, croce, chiusa parentesi, forza, hai capito? Perché comunque abbiamo dei grandi piloti del 2014 in questa fuori discussione. No, il riferimento che fai tu credo valga una riflessione anche molto malinconica che riguarda l'Italia, intesa come paese, Montezemolo direbbe come sistema. Noi non contiamo più una cippalippa, neanche in Formula 1, a parte la Ferrari ovviamente. Sono più di 2 anni che non c'è un pilota italiano sulla griglia di partenza di un Gran Premio. Potremmo anche estendere il discorso alle moto, perché dietro Valentino Rossi tu vedi che anche nelle cosiddette serie categorie inferiori ci sono solo spagnoli. Sì. Io ricordo gli anni 90, quando posso citare la rinfusa Patrese, De Cesaris, De Angelis, il compianto Alboreto, Nannini, c'erano Gran Premi con 10 italiani al via. Adesso si è creata una situazione dovuta soprattutto a ragioni economico-finanziarie, per la quale anche Valsecchi, che è un ragazzo molto in gamba, che ha vinto il campionato di GP2, che sarebbe diciamo la Serie B rispetto alla Serie A del calcio, che è il terzo pilota della Lotus, avrebbe il diritto di subentrare a Raikkonen, e gli preferiscono Kovalainen, che arriva dopo la musica, molto probabilmente soltanto perché ha qualche sponsor più munifico alle spalle. Questo è molto triste per la Formula 1 in generale e per gli italiani in particolare. Io non credo che nel paese della patente a punti non nascano più giovanotti in grado di correre in Formula 1. Sì, non lo credo neanch'io, anche perché mi rifiuto di pensare ad una Romagna, terra dei motori, vestita perennemente a lutto. Però sai che mi fai venire in mente una cosa, che dimmela. Se Toir diventasse presidente della Ferrari... Toir diventa presidente della Ferrari? Ecco, richiesto di fare sia stato il pilota della Ferrari che lui ha amato di più, ti risponderebbe Nicola Larini. Invece, che mi so, Schumacher o Lauda o Alonso o Raikkonen, no? Ragazzi, viviamo in ti è rimasta momento. Qua, Ventola ti è rimasto qua, come una lischia in gola, Leo Turrini. No, io non lo so, adesso io immagino che ne avrai già parlato nella tua trasmissione, diciamo che è stata uscita in contropiede, insomma, una ripartenza di Toir, tanto di cappello, però ti dico, questo diventa presidente Ferrari, il pilota che ha amato di più Nicola Larini. Quanto ci metterà a scoppiare la coppia Alonso Raikkonen? Dai, domanda tanto te l'aspettavi, è facile ed è banale. No, io sono molto fiducioso per 2 ragioni. Io no. Lo so, abbiamo già discusso, tu sei uno ostile a questa operazione, ma ti faremo ricredere. No, io invece sono molto sereno, sostanzialmente dicevo per 2 motivi. Il primo, che sono entrambi, non solo tanti piloti, ma anche in senso assoluto 2 veterani, insomma io ho detto prima Zilla Team, ma insomma sono ormai tra i più anziani in pista, quindi hanno anche la maturità necessaria per gestire eventuali situazioni di disagio reciproco. E la seconda, penso si rendano conto che al di là di quello che sarà il valore della macchina, che speriamo venga finalmente bene confezionata a Maranello, e insomma dall'altra parte della barricata hanno questo fenomeno qui, quindi sì, può essere conveniente anche per loro sommare le forze. Sì. Poi la speranza, io guarda, te lo dico come Toir illuminato di mucho quando parla di Ventola, io spero che litighino, perché vorrebbe dire che sono primo e secondo, certo, nel mondiale. Questo e fa una piega. Stanno giocando il titolo fra di loro. Su questo hai ragione, da vendere. Io ci auguriamo tutti che arrivino ai ferri corti con un mondiale in ballo. Leo, ti ringrazio, è sempre un piacere, è sempre un elisir di lunga vita sentirti. Mi prostro, ti ringrazio, ti bacio e ti do appuntamento la prossima volta. OGR. Grazie. Ciao. Guardi che tu sei il Roberto Benigni della Vita Bella alla radio. Questo Raikkonen è uno straordinario, lo vedi anche negli sport, sì, che sì, fanno fare, no? È meraviglioso, che dice, c'è il pescatore, non so se l'hai visto, no? Cosa fai qui? Holidays? Sei qui in vacanza? No. No. Business? Sei qui per affari? No. No. Friends? Sei qui per amore? No. No. Why are you so far away from home? Allora perché sei qui? E lui risponde, I have no idea. No? I have no idea. Non lo so. Tutti convocati. Vi ripeto il numero verde 800240024. Vi ripeto come ogni giorno che vabbè, ormai da un po' siamo insieme fino alle 3:20, anche e soprattutto per parlare con voi, messaggi 349-238-6666. C'è un ascoltatore che intima, parliamo della Virtus Bologna di basket o no? Roby, tanto io parlo con Giordano da Trapani, poi vediamo. Ciao Giordano. Sì, ciao, ciao. Senti, no, volevo dirti questo, che non so, ho avuto la sensazione, adesso io non seguo da molto tempo la vostra trasmissione, sì, però che si parli un po' troppo poco della Serie B, cioè, in questo senso. Io ieri ho assistito a una bella partita qui a Trapani, cioè, sono di Milano, però lavoro a Trapani, e volevo andare a vedere una partita da un po' di tempo, ne ho avuto l'occasione, e ho visto Trapani-Novara, e non so, come sai il Trapani era, credo, 9 giornate che non riusciva ad ottenere un risultato positivo. Sì. E ieri contro un Novara comunque agguerrito, quadrato, è riuscito sotto di un gol, poi nel secondo tempo a fare 2 gol e riuscire, sì, in una piccola impresa. E no, mi è piaciuto molto, cioè, vivere quelle emozioni, allora, a Trapani. Allora comunque... facciamo così, Giordano, facciamo insieme a te, tu stai lì, facciamo un appello, sì, pubblico. Allora, noi è vero, di Serie B non parliamo molto. Allora, sì, invito tutti Giordano d'Italia a fare come ha fatto Giordano da Trapani. Cioè, chiamateci e raccontatecele voi le partite di Serie, no, B, ma con le vostre sensazioni, emozioni, no, no, anche ma... con la precisione di cronaca che stai usando tu, bravo. No, no, ma difatti no, ma è perché sono rimasto sorpreso, perché io, vabbè, adesso simpatizzo per il Trapani, lavoro qui da 2 mesi e non conosco bene la squadra, ma il tifo, i tifosi mi sono sembrati veramente fantastici. E anche la squadra sotto di un gol dopo il primo tempo, nel secondo tempo è riuscita a reagire, Boscaglia credo abbia fatto bene a sostituire, a fare tutte e tre le sostituzioni e ci ha azzeccato, perché poi alla fine i 2 gol della vittoria sono arrivati. E ho avuto la sensazione veramente che, non so, che questo calcio della Serie B, almeno per quello che ho vissuto ieri io, è più vero, cioè è più sincero, è più genuino, sì, non so, anche nel rapporto con i tifosi. E insomma, alla fine la squadra del Trapani. O almeno con quei pochissimi che vanno in tribuna. Quanta gente c'era ieri? Ma guarda, ieri ce n'era abbastanza. Adesso non so quantificare, ma comunque ce n'era abbastanza pieno. Non so dirti 5.000, 6.000, 7.000, non so. Adesso sinceramente potrei, sì, anche comunque dire siamo su numeri abbastanza bassi. bassi, però una bellissima giornata, perché comunque a Trapani le giornate spesso sono belle. Quindi, sì, sì, certo. È un Boscaglia che alla fine è venuto in gradi sotto la gradinata a stringere le mani e comunque gliela ponesse, insomma, sì, e, sì, sì. E tutta la squadra sotto la curva alla fine a festeggiare in una maniera, in un'impresa veramente forse non tanto sperata, perché il Novara, come sappiamo, non è una squadretta facile. No, insomma. No, no, ma di sicuro, mi hai raccontato perfettamente la partita, mi hai venuto, mi hai fatto venire voglia di andare a rivedere qualche highlight. Io la Serie B lo confesso, la guardo abbastanza di sfuggita, ma anche perché, altra confessione pubblica che faccio, mi deprimo tremendamente di fronte alle immagini che vedo degli stadi vuoti, cioè di quegli stadi nei quali puoi quasi contare gli spettatori. E purtroppo è un'immagine tipica del nostro calcio. Io ti ringrazio, io invito tutti, ma davvero lo faccio con il cuore, invito tutti i Giordano da Trapani o da qualunque altro luogo, se giochino partite di Serie B, a darci dei loro racconti, visto che noi non siamo così bravi, non abbiamo i mezzi, non abbiamo la competenza per così scavare fino in fondo al calcio, alla Serie B, ma anche a Lega Pro, vale tutto, non solo per raccontarci di quelle di porcherie intorno a Nocerina, Salernitana, Nocerina, quel che era. Invito gli ascoltatori a raccontarci le loro emozioni da questi campi, perché mi piace così, sarebbe un bel modo secondo me di trattare il calcio di Bilega Pro, eccetera eccetera eccetera. Andrea, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Carlo, di nuovo convocato, grazie. Bravo Andrea. Io volevo dire due cose sulla Formula 1. Prego. Allora, io sono un tifoso di Vettel, quindi non sono un simpatizzante, tifoso di Hamilton, scusa, lapsus freudiano. Di Hamilton. No, quindi devo dire che però Vettel, nonostante una certa antipatia che covo nei suoi confronti, ultimamente la sua operazione simpatia un certo fascino lo esercita su di me, perché comunque ci voleva qualcuno che a fine gara, in barba alle multe, sì, facesse un po' quello che voleva per festeggiare. Al di là di quello, anch'io penso che vada valutato su un'altra macchina, però non dimentichiamoci che lui ha iniziato a stupire prima sulla Sauber e poi sulla Toro Rosso, ma sì, non con qualche piazzamento, vincendo addirittura con la Toro Rosso. Andrea, non stiamo discutendo del valore assoluto di Sebastian Vettel, che è altissimo. Quello che dico io è che un dominio così impossibile, così incontrastato, così netto, è qualcosa, secondo me, torno a ripeterlo, di antistorico, perché non ho idea di quanto sia grande effetto in valore assoluto nella storia della Formula 1, però ha già fatto delle cose che dei piloti grandissimi non sono mai riusciti a fare. Ma sono d'accordo, anche perché effettivamente Ascari ha fatto le sue 9 gare consecutive vinte, l'ha fatta innanzitutto in stagioni in cui non c'erano la metà delle gare di Sonora, e poi in condizioni in cui le macchine che arrivavano a fine gara erano la metà di quello dello schieramento. Per cui, cioè, non sono paragonabili i due record, cioè il record di Vettel è fatto quasi ho capito però i record sono record, cioè è sempre Formula 1, certo, i numeri sono quelli, e insomma io leggo oggi Barbera e Champagne, a proposito di Giorgio Terruzzi su Corriere della Sera, a proposito, preferite il Barbera o lo Champagne? Io lo Champagne, al di là delle mie origini, poi questione di gusti, però almeno che Vettel non ci cancelli anche quest'altro record a cui siamo longevo quanto la storia intera, a cui siamo molto affezionati, che è il record di Alberto Ascari. Che qualcuno lo fermi piuttosto con le puntine, purtroppo è elevato. Io volevo dire un'ultima cosa, se ho tempo. Dica, poi c'è Matteo, provincia di Modena. Che riguardava il discorso di Kovalainen, no? Io, anche a me spiace molto per Valsecchi, perché è un pilota di talento. Sì. Devo dire una cosa, Fisichella 4 anni fa sulla Ferrari, che già guidava una Formula 1 quello stesso anno, arrivava ultimo. Per cui capisco un po' la scelta della Lotus, anche se non la condivido. No, io no. Basta. Perché Valsecchi, ma Valsecchi è un eccellente pilota, è il collaudatore della Lotus, conosce quella macchina come le sue tasche. Non credo che avrebbe fatto peggio di Kovalainen. I collaudatori di oggi però non possono collaudano solo all'inizio stagione, durante l'anno Valsecchi penso non l'abbia mai neanche superata quella macchina. Penso, sì, però una chance secondo me se la meritava, senza la necessità di andare a prendere Kovalainen. Però sono giochi sotterranei cui siamo abituati. Chissà quanto Kovalainen potrà portare alla Lotus in termini di, alla Lotus che ha le tasche vuote, in termini di grano. Molto divertente poi il fatto che Kimi Raikkonen abbia detto: vabbè ragazzi, adesso basta, andate avanti voi che io faccio quattro giretti in riva ai laghi e poi mi presento in forma per la Ferrari, ai ai o mal di schiena, così Kimi Raikkonen. Grazie, intanto c'è chi ci segnala, bravissimi i nostri corrispondenti anche dai campi di Serie B, che Trapani Novara aveva 4.386 spettatori, immaginatevi un po'. Volevamo parlare di Virtus ma ci hanno fatto il pacco, giusto? Coach Becchi era in scaletta ma non siamo riusciti a raggiungerlo, lo faremo un altro giorno. Matteo, provincia di Modena. Salve gente, chiamo da Carpi precisamente. Da Carpi? Visto che parlavate di Serie B, sì, da Carpi. Ieri per il derby è stata una bellissima giornata per noi carpiani, anche di sport. Una partita bella che il Carpi ha meritato. E tifosi... Sì, ciao. Insomma, mi pare di capire che al Carpi è andato tutto bene, a differenza di quanto è successo una settimana fa a Nocera. Mi pare anche che i telefoni facciano diversi capricci. Mi pare anche che domani avremo un appuntamento importante, se non salta anche quello, sempre dalle parti di Bologna per parlare di calcio. Questa sera ci guardiamo, magari con un occhio solo e mangiando due spaghi, questo Italia-Nigeria. Interessante la coppia d'attacco, oggi abbiamo parlato di coppie che scoppiano, io mi auguro davvero che questa possa non scoppiare, perché rappresenta per le condizioni attuali di Giuseppe Rossi e per il valore assoluto del suo partner di questa sera, Mario Balotelli, credo che questa sia davvero la coppia ideale da portare ai mondiali per quanto riguarda la nazionale di Prandelli, che vorrebbe più affetto da parte di tutti. Ho bisogno d'affetto, come cantava una volta Luca Carboni. Beh, di affetto per la nazionale ce n'è tanto, da Prandelli invece vorremmo qualche dichiarazione un po' più d'effetto. Mi sembra che si stia appiattendo un po' il nostro CT. Niente, chiudiamo qui ragazzi. Che dobbiamo fare? Becchi, allenatore della Virtus Bologna, ci ha fatto un clamoroso pacco. Io mi scuso profondamente con l'ascoltatore che prima scriveva: ma parliamo di Virtus Bologna o no? Domani magari, se ci riusciamo, e non solo di Virtus Bologna ma anche di un campionato di calcio che stasera dovrà vedere l'Armani, grande mistero mai risolto della nostra pallacanestro, in campo a Venezia. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Oggi Carlo ha pronunciato il nome di Mario Balotelli due volte. Tutti convocati.